Radio 24 Reportage. Lucca Comics and Games, 50 anni di passione per fumetti, giochi e animazione, di Adriano Palazzolo. Graphic novel, comics, manga o più semplicemente fumetti. Chiamateli come volete, ma i volumetti che raccontano storie per immagini in Italia non sono più un'esclusiva per bambini, ragazzini, teenager, appassionati e intenditori. Proprio nel nostro paese da 50 anni si svolge una fiera dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi e ai videogame. Si chiama Lucca Comics and Games e ha luogo ogni anno nella piccola città toscana. Ma come mai è cambiata la considerazione per questa forma d'arte, il fumetto, che in molti oggi affiancano alla letteratura? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Russo, coordinatore della manifestazione. Direi che senz'altro stanno cambiando le cose. La partecipazione ai premi letterari è un sintomo di questo. Poi magari, ecco, anche lì c'era chi faceva notare che magari dal punto di vista del linguaggio sono cose completamente diverse e in definitiva non ci incastra molto, ecco, il fumetto con la letteratura, però ecco, è nelle cose. Per cui io sono di quelli che, per dire, non l'ha visto come qualcosa di negativo e anzi l'ha salutato come una tappa importante appunto di questo percorso di riconoscimento, ecco, che il fumetto sta finalmente vivendo in questa fase. Il riproporre appunto le migliori storie seriali in formato librario, il che permette ovviamente prima di darle una veste appunto senz'altro più prestigiosa, ecco, rispetto all'albo d'edicola. E soprattutto poi permette di averle sempre disponibili appunto a catalogo e non più appunto limitate alla periodicità della serializzazione. Ecco, questo è un passo avanti importante. Io direi che proprio l'arrivo del fumetto in libreria è il primo fattore, ecco, che sta smuovendo appunto la vecchia consolidata percezione del fumetto un po' negativa e un po' riduttiva, ecco, in primis quello. Cioè. Lucca Comics and Games è la più importante manifestazione del settore in Europa e la seconda al mondo. Nei giorni a cavallo tra la fine di ottobre e i primi di novembre, il capoluogo toscano viene letteralmente preso d'assalto da appassionati di tutto il mondo e nel 2015 ha raggiunto oltre 400.000 presenze. Quest'anno l'amore tra Lucca e i fumetti compie 50 anni e proprio per festeggiare il particolare anniversario, l'edizione in corso in questi giorni è stata chiamata Gold, in riferimento a delle vere e proprie nozze d'oro. Il 2016 però è l'anno di un'altra grande occasione, i 30 anni dalla nascita di Dylan Dog. Per Radio 24 il fumettista Roberto Recchioni ha curato un radiofumetto sull'indagatore dell'incubo. Dylan funziona e piace quando è capace di intercettare il senso del tempo presente, cioè quando è capace di raccontare il momento attuale e quando nel raccontare il momento attuale non è mai dalla parte del più forte, è dalla parte del più debole, è dalla parte della persona che si scontra col sistema, con il potere, con i luoghi comuni, con gli stereotipi e soprattutto con le discriminazioni. Dylan si è sempre schierato dalla parte del discriminato, è discriminato a sua volta. Dylan tende a non avere cambiamenti, ma perché è già un personaggio in costante mutamento. Tiziano gli ha sempre dato una caratteristica che gli permetteva di essere anche in contraddizione con se stesso. Ogni tanto noi come sceneggiatori che abbiamo raccolto l'eredità di Tiziano ci siamo un po' seduti e l'abbiamo fatto un po' sclerotizzare in dei luoghi comuni. Quella è la sfida attuale nel non fare più in maniera che si cristallizzi. Dylan Dog non è un luogo comune, non è un piccolo moralizzatore, è un personaggio che pensa e agisce e certe volte lo fa in maniera insospettabile, che non ti aspetti. Like this, like that, like this, this, like that. Nei giorni della manifestazione, per le strade di Lucca non è difficile imbattersi in cosplayer, persone che indossano un costume che rappresenta il personaggio di un fumetto, una serie TV, un videogioco o un film d'animazione. È un fenomeno che in Giappone, ad esempio, è nella quotidianità della vita metropolitana, mentre in Occidente è riservato alle convention dei fan o alle fiere di settore. Ma non si tratta solo di travestirsi, come ci spiega Andrea Buggio, giovane cosplayer. Sono qui perché ormai è una tradizione, io vengo qua da 5 anni, anche se sto a un paio di chilometri da qui, e tutti gli anni porto un costume diverso. È una mia passione e un modo mio per divertirmi che mi piace un sacco. Un cosplayer è una persona che innanzitutto si diverte a portare i personaggi che ama in prima persona. Una differenza fondamentale tra un cosplayer e una persona che si mette un costume è che il cosplayer, per la maggior parte dei casi, il costume se lo produce da solo. Se lo produce e se lo realizza interamente in ogni particolare, in ogni dettaglio. È questa la cosa che differenzia più che altro una persona che ama la propria passione e che ama ciò che fa. Nel mio caso io mi sono realizzato questo costume quest'anno in circa 3 mesi. Sono portato Deathstroke, che è un cattivo dell'universo DC, un cattivo di Batman. E è fatto tutto di foam, è verniciato con le bombolette spray e parti in vetro resina. Mi ci sono messo un po', ci ho perso un po' di tempo. L'avevo portato già a un'altra fiera tempo fa e quindi, nel senso, sapevo già che comunque è un personaggio apprezzato e riscontro questa, cioè trovo dimostrazione anche oggi, via. Però è importante far notare che il cosplay e queste fiere portano anche tante persone con la stessa passione, che quindi si uniscono e riusciamo facilmente a trovare amici nuovi oppure conoscenze interessanti nel solito mondo, nel solito campo. Di pari passo col mondo del fumetto va quello dell'animazione, dalle serie di cartoni animati ai film per il cinema in computer grafica fino all'animazione tradizionale. Il programma di Lucca Comics and Games include anteprime, rassegne e anche workshop per chi vuole cimentarsi nel disegno. Anche se la tecnologia di oggi sembra farcelo dimenticare, tutto parte sempre dalla matita. Abbiamo incontrato Claudio Sciarrone, fumettista, disegnatore e sceneggiatore, che si divide tra la carta e lo schermo. Allora, il lato dell'animazione, per quanto riguarda un autore come me che passa da media diversi, perché ho fatto anche videogiochi e fumetti sono la mia fonte di sostentamento e di creatività, di massima espressione. Per quanto riguarda il cartone animato, avendo una visione regista, passami questo termine, perché il disegnatore di fumetti poi alla fine è soprattutto regista, anche interprete, scenografo, redattore di interni, eccetera, ha una visione che deve fare un po' da traduttore. Io sono uno che si nutre prevalentemente di cinema e d'animazione e di videogiochi e cerca di portare questi media dentro il fumetto. Quindi dall'animazione, soprattutto quella giapponese, io ho attinto tantissimo. Sono uno di quella generazione nata con i cartoni animati giapponesi degli anni 70, per intenderci. La cosa bella è, come mi è capitato, poter trasporre appunto dai film d'animazione a fumetti le versioni di film come Monster & Company, di Wall-E, Atlantis, dove ho potuto trasformare in pagine di fumetto dei film d'animazione. In questo caso la difficoltà era immaginarsi il film prima che fosse realizzato, perché Disney usciva globalmente con i film, i libri e i fumetti, e quindi a me veniva data la sceneggiatura adattata a fumetti e il cast con i personaggi fondali principali, ma io il film, come si dice, un film se lo deve fare in testa, io il film lo devo proprio veramente fare in testa prima che venisse realizzato. Le musiche che fanno da colonna sonora a questo reportage sono tutte tratte da Jet Set Radio, un videogioco di qualche anno fa realizzato con uno stile grafico chiamato cel shading, che si rifà proprio all'animazione giapponese. I videogiochi sono diventati nel corso degli anni un segmento importante di Lucca Comics and Games, tanto da guadagnarsi l'aggiunta nel nome della manifestazione. Fumetti, animazione e videogiochi hanno un legame importante, anche quando la passione si trasforma in professione, come racconta ancora Claudio Sciarrone. In questo momento lavorare per l'intrattenimento disegnato vuol dire nutrirsi di tutto quello che c'è in giro. Se tu pensi a quanti effetti speciali ci sono in un film normale ormai d'azione, la roba digitale che viene prima disegnata, scarabocchiata, provata e poi sviluppata in 3D, passa sempre comunque da una manualità. Il momento è cruciale, nel senso che mi capita di vedere aziende che cercano character designer, background artist, che sappiano disegnare, perché poi gli sviluppatori in 3D sono altre professioni, no? Chi parte dal concept solitamente è un artista tradizionale che poi passa la mano a uno che trasforma in digitale, tridimensionalmente, tutto il lavoro fatto su carta. Qui direi che a un ragazzo che si vuole anche approcciare al mondo dei videogiochi o ha una spiccata passione per l'informatica, allora diventi un programmatore. E allora si parla di rendering, di ombre, di effetti di luce, e quello è un'altra cosa. Poi c'è il game designer che si occupa ovviamente della progettazione dei livelli, quindi delle complessità, della struttura proprio del videogioco. Ma per quanto riguarda la parte creativa, quello che noi vediamo e percepiamo quando vediamo un videogioco, la parte essenziale è ancora legata veramente all'immaginario di un artista che prende una matita in mano e comincia a scarabocchiare dei personaggi. Però sinceramente io ho fatto il liceo artistico, mi sono trovato in Disney, mi sento di dire che se un ragazzo in questo momento al liceo artistico ha una passione che può essere quella dei videogiochi, come quella degli effetti speciali per il cinema, la partenza, proprio il nocciolo, è la passione e la curiosità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.